Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata, ricominciamo la settimana di Salva Danaio. Un saluto a tutti da Deborah Rosciani. Vi ricordate la scorsa primavera quante puntate abbiamo dedicato a tutti i bonus stanziati dal governo per rilanciare i consumi? Da quelli per le due ruote, andati letteralmente a ruba bruciati in pochissimi giorni, a quelli per gli elettrodomestici, le cucine componibili, a quelli per la banda larga, a quelli per la costruzione di immobili ad alta efficienza energetica. Oggi il Sole 24 Ore fa un punto della situazione sulle risorse ancora disponibili, l'iter che bisogna seguire per poterne beneficiare, insomma quali opportunità ci sono ancora. E allora se avete in cantiere qualche acquisto impegnativo da qui ai prossimi mesi, magari vale la pena informarsi se esiste qualche agevolazione. Noi oggi vi spieghiamo quali incentivi sono ancora validi e approfittiamo del monitoraggio che è stato condotto dalla collega del Sole 24 Ore, Francesca Milano, che saluto. Francesca, ciao, bentornata. Grazie, buongiorno. E per aiutarci a capirne qualcosa di più abbiamo interpellato naturalmente anche due esperti: Pierluigi Bernasconi, vicepresidente dell'AIRES, l'Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati, è già collegato con noi. Dottor Bernasconi, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. E naturalmente l'uomo del fisco non poteva mancare, soprattutto per tutto ciò che attiene alla domanda da fare per ottenere gli sgravi fiscali e gli incentivi per la costruzione di immobili ad alta efficienza energetica, le cosiddette ecocase. E siamo ritornati a disturbare, neanche siamo ritornati dalle ferie che già lo abbiamo scomodato, Luca De Stefani, nostro esperto, l'esperto del Sole 24 Ore in materia fiscale, estremamente preparato su questi argomenti. De Stefani, buongiorno. Non l'abbiamo ancora collegato telefonicamente, scusatemi, chiedo scusa. Sì, è vero, anche perché avevamo deciso di chiamarlo più tardi questa mattina. Vabbè, lunedì anche per me, abbiate pazienza. Gaia Romani, la mia assistente, mi guarda un po' interdetta, dice: ma che stai facendo? Comunque, questo è il tema che affronteremo questa mattina, grazie anche alle vostre domande all'800 24 00 24 o al 349 238 6666. La borsa, allora, la borsa stamattina è partita benino e aveva trovato un certo slancio dalla chiusura positiva di Wall Street di venerdì scorso, dove c'è stato il dato sul PIL che è stato comunque rivisto a ribasso, e ci sono state le dichiarazioni del presidente della Banca Centrale Americana Bernanke, che ha assicurato l'adozione di ulteriori misure da parte della Banca Centrale se necessarie alla ripresa dell'economia. E poi stamattina qualche anticipazione sul pacchetto di misure che il governo nipponico, il governo giapponese prenderà per stimolare l'attività economica nipponica e per frenare la corsa dello yen. Insomma, tutto questo ha fatto bene alle borse in apertura, ma già c'è una marcia indietro in granata da Parigi e da Milano, che segnano adesso il territorio negativo. Rimane ancora positiva Francoforte, mentre è chiusa per festività Londra. Tutte le monete si sono riprese sullo yen, quindi in qualche maniera le misure del governo giapponese sono servite a rallentare la corsa della sua divisa, anche se già adesso vedo di nuovo uno spunto in senso contrario. Quindi insomma un mercato, quello valutario, che va monitorato ancora attentamente. Piazza Affari stamattina gli acquisti più forti sul Banco Popolare, che è in guadagno di 2 punti, Campari più 1,42, Fondiaria più 1,26, A2A più 0,9, CIR più 0,8 e Mediolanum più 0,7%. Monte dei Paschi, peggior titolo, perde l'1,20%, dopo peraltro i risultati che sono stati comunicati settimana scorsa insieme alla Popolare di Milano. Tenaris meno 1,19, Telecom meno 1,13, ribasso di un punto anche per STM, per UbiBanca, che pur ha presentato i conti venerdì a mercati chiusi, Autogrill in ribasso di un punto, Parmalat meno 0,89%. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di questa mattina, ancora una guida ai bonus del governo per rilanciare i consumi. Aiutare le imprese, sostenere i settori più colpiti dalla crisi, dare valore al Made in Italy senza dimenticare i giovani, l'ambiente e la qualità della vita. È alla luce di questi obiettivi che il Consiglio dei Ministri ha approvato nella scorsa primavera il Decreto Incentivi 2010, vale a dire lo stanziamento di 300 milioni di euro destinati a sconti e agevolazioni per l'acquisto di diversi prodotti. E se all'epoca in molti avevano ritenuto inadeguata e bassa la cifra stanziata, guardando ai numeri 4 mesi dopo il via libera al decreto, la situazione appare ben diversa. La prevista corsa allo sconto sembra essersi arenata dal momento che sono stati utilizzati solo 175,4 milioni, ovvero meno del 60% delle risorse messe a disposizione. Le richieste di agevolazione si potranno presentare in ogni caso fino al 31 dicembre e sono molti i settori in cui si può ancora approfittare di questa opportunità. Nel caso di motocicli, banda larga e macchine agricole è già stato erogato il 100% della cifra a disposizione. Non si può dire lo stesso degli incentivi per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, fermi al 26%, e apparecchiature per l'efficienza energetica industriale, sfruttati addirittura solo per lo 0,4%. Senza considerare che sono tuttora disponibili anche più della metà dei 50 milioni stanziati per gli sconti del 20% sull'acquisto di elettrodomestici. 800 24 0024, il numero verde che conoscete sicuramente benissimo. Per chi non se lo ricordasse, comunque questo è il modo per poterci chiamare e fare delle domande in diretta agli esperti di questa mattina, oppure 349 238 6666, il numero dei vostri messaggi, per i vostri messaggi. Allora, Francesca, abbiamo riepilogato un po' nel complesso la situazione che anche tu descrivi molto bene questa mattina sul Sole 24 Ore. Aruba, gli incentivi per le due ruote, esattamente come era successo anche nella fase precedente, e poi tra l'altro, a dispetto dei numerosi iter per la ristrutturazione della casa che sono in corso, non vanno di pari passo, diciamo, gli incentivi per l'acquisto di nuovi elettrodomestici, delle cucine componibili. In sostanza, non tutte le risorse messe in campo dal governo sono state utilizzate, anche se magari da qui alla fine dell'anno potrà esserci qualche buona sorpresa. Quali altri dati interessanti, insomma, hai scoperto facendo questo tuo monitoraggio? Ma sicuramente è interessante il dato sulle macchine agricole che sono esaurite e al 100%, significa che il settore aveva bisogno di questi incentivi, e anche l'incentivo per la banda larga che era destinato ai giovani, perché è finito appunto. C'era una possibilità di uno sconto di 50 euro sull'attivazione di una nuova linea telefonica a banda larga, e evidentemente i giovani sono stati ben contenti, ecco, di questo sconto, ne hanno usufruito nei mesi passati, perché non ci sono più risorse disponibili. Mentre, come abbiamo detto, a rilento un po' le cucine e gli elettrodomestici. Si aspettava un boom, una corsa agli elettrodomestici e alle cucine componibili, probabilmente nelle prime settimane c'è stata, e poi il dato è un po' rallentato, perché ad oggi, dopo 4 mesi, ci sono ancora delle risorse disponibili che sono utilizzabili, ricordiamo, fino a dicembre. Tra l'altro, mese cruciale, perché in quella data terminerà anche l'opportunità di fare richiesta per l'incentivo per la riqualificazione energetica degli edifici, il famoso 55%, perché, insomma, ricordiamolo, magari ci ritorneremo con altre puntate, perché poi, insomma, questa opportunità non ci sarà più, anche se c'è una grande già lotta all'interno del governo per poterli prorogare. È molto importante. C'è questo 0,40% appena di risorse utilizzate rispetto ai 10 milioni disponibili per l'efficienza energetica industriale, un ambito piuttosto complesso. Francesca, però, chissà anche lì che cosa significa il fatto che non sia stato utilizzato affatto. Forse sono pochi i macchinari che beneficiano dello sconto, forse sono molto costosi e lo sconto, ecco, comunque ricordiamo, è parziale rispetto al prezzo totale. E non è ancora tempo per le imprese di fare grandi investimenti? Probabilmente no. Ne hanno usufruito fino ad oggi 360 imprese, quindi davvero poche. Allora, dottor Pierluigi Bernasconi, vicepresidente dell'AIRES, l'Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati. Ah, peraltro, prima di interpellare di nuovo il dottor Bernasconi, so che tu questa mattina hai rifatto una telefonata, poi magari spieghiamo il motivo ai nostri ascoltatori. Assolutamente, al Ministero dello Sviluppo Economico. Esattamente. Ci hanno confermato questi dati, ovviamente sono leggermente modificati, perché questi qui che abbiamo pubblicato oggi sono dati al 2 agosto, il monitoraggio avviene mensilmente, per cui adesso saranno leggermente in avanti, ma comunque le risorse ci sono ancora, confermato dal Ministero dello Sviluppo. Perché raccontiamo questa cosa? Poi lo spiegheremo meglio nella seconda parte della trasmissione ai nostri ascoltatori, ma vi anticipo già che sostanzialmente ci ha scritto qualche ascoltatore dicendoci che, interpellando alcuni rivenditori proprio per l'acquisto, per esempio, adesso non mi ricordo bene di che cosa, se elettrodomestici. Sì. Ecco, molti rivenditori sostengono che gli incentivi sono già esauriti e quindi non danno la possibilità ai consumatori di fare la domanda. Dottor Bernasconi, forse questo è spiegato dal fatto che comunque per i rivenditori l'iter è tutt'altro che semplice. L'acquirente prende lo sconto al volo, intanto il rivenditore, prima di poter vedere il riconoscimento, la restituzione da parte dello Stato dell'incentivo riconosciuto all'acquirente, c'è una procedura un po' farraginosa da seguire. Forse questo ha scoraggiato un po' dei vostri associati? Credo, buongiorno di nuovo, credo di sì, credo un po' che fosse un po' nelle premesse del decreto, no? Cioè, quando il decreto uscì, uno dei primi appunti mossi fu appunto la questione del metodo di rimborso particolarmente difficile e dilazionato nel tempo, perché stiamo ancora aspettando i primi rimborsi praticamente. Ora, che qualche, adesso la casistica mi sfugge, naturalmente non abbiamo una numerica, può essere che qualche rivenditore, teniamo conto che quando si parla di rivenditori di elettrodomestici, ammesso che fossero rivenditori di elettrodomestici e non mobilieri, perché sapete che anche i mobilieri ovviamente possono, certamente, vendendo i prodotti, elargire, diciamo, i contributi, però può anche essere che qualche rivenditore o diciamo non abbia voglia e tempo per fare tutte le pratiche, quindi magari preferisce di tasca sua fare uno sconto immediato, oppure semplicemente qualche rivenditore non è sufficientemente informato nonostante tutto quello che è stato fatto. C'è da dire che nelle prime settimane raggiungere telefonicamente il famoso call center delle Poste Italiane era veramente un'impresa. Infatti, immagino. Allora, questo ci dà l'opportunità, dottor Bernasconi, adesso con Francesca, di riepilogare un po' quali sono i passi da fare per poter utilizzare, per poter usufruire di questi incentivi, perché mi sembra anche utile, visto che abbiamo parlato di procedura un po' complessa, perché c'è da fare la verifica se l'incentivo esiste ancora. Quindi, allora, io mi reco da un rivenditore. Ricordiamo che i frigoriferi e le lavatrici non sono escluse in questa partita di incentivi, ne hanno un'altra gamma e magari poi ci andiamo. Allora, intanto i frigoriferi, le lavatrici proprio non le hanno in assoluto, esatto. Invece hanno un altro contributo. Benissimo, grazie. Francesca, allora che cosa dobbiamo fare? Intanto voglio comprare un nuovo forno. Allora, se ci va da un rivenditore... Devo rottamare quello vecchio? Assolutamente, devo rottamare quello vecchio. Si va da un rivenditore che ha partecipato, che in qualche modo quindi si è registrato sul sito delle Poste. Il rivenditore chiama istantaneamente... Perché insomma all'inizio c'era da fare anche questo. Esatto, bisognava aderire all'iniziativa del Ministero. Quindi chiaramente hanno ricevuto tutti i rivenditori una password per accedere via telefono. Controllano attraverso il call center che ci siano ancora risorse. Se la risposta è positiva, si beneficia quindi dello sconto istantaneo e al rivenditore questi soldi torneranno indietro. Allora, inizialmente si era detto torneranno a 90 giorni dalla vendita. Il problema è che ad oggi questi rimborsi non sono ancora arrivati perché il Ministero delle Finanze non ha ancora sbloccato le risorse disponibili. Il Ministero dello Sviluppo Economico assicura che questo avverrà a metà settembre, lo dicevano proprio stamattina. Calcoliamo così a spanne, 90 giorni lavorativi, ferie escluse, esatto, quindi agosto non lo consideriamo, insomma mettiamo che settembre-ottobre qualcuno possa cominciare a vedere un po' di denaro. Bisogna considerare, come dicevamo prima, dell'iter, quindi della procedura, che il cliente deve avere tutti i requisiti in regola, quindi deve poter dimostrare di aver rottamato, nel caso di un elettrodomestico equivalente, nel caso della cucina componibile deve dimostrare di aver rottamato una cucina, quindi deve portarla, non so, presso un centro di rifiuti ingombranti e farsi rilasciare una certificazione. Esatto, perché quella è un'altra bella, tra virgolette, rogna. Esattamente, esattamente, perché questa certificazione poi va consegnata al rivenditore che a sua volta deve mandarlo tutto al Ministero. È capitato nei primi mesi che 1 milione di euro relativi alle cucine sia stato, come dire, bloccato, quindi prenotato e poi sia tornato in palio perché i clienti non avevano i requisiti in regola. Ah, ecco. Quindi nel caso in cui appunto non si abbiano tutte le carte in regola, questi soldi non vengono erogati ma tornano nel monte premi, diciamo. Dottor Bernasconi, ci può confermare quanto ci raccontavano? No, motivo ma, di dubitarne. Sì, naturalmente questo è un fatto, come dire, alquanto bizzarro, no? Perché si pretenderebbe che, facciamo un'ipotesi, una famiglia rottamasse la cucina con la quale probabilmente fa da mangiare tutti i giorni prima di ricevere quella nuova, non so, per qualche giorno questa famiglia va al ristorante, non so cosa farà, ma insomma... In effetti adesso, scherzi a parte, la procedura, sia quella richiesta ai clienti, diciamo ai consumatori, ai cittadini, sia poi tutto il package di documenti che il rivenditore deve allegare, è decisamente poco, come dire, funzionale, è piuttosto complessa, ma non tanto complessa come norma, come regola, proprio complessa nell'attuazione, perché richiede evidentemente dei passi piuttosto anche temporalmente non sempre coerenti. Certo, quali sono quelli che vi hanno complicato un po' di più la vita, dottor Bernasconi? Perché magari il governo ci dovesse... Questo fatto del ritiro, tra parentesi, cioè nel caso degli elettrodomestici, a parte la cucina, ma nel caso degli elettrodomestici c'è anche la complicazione che questo ritiro dell'elettrodomestico non è contestuale all'acquisto, no? Mm-hmm. Cioè, ovvero sia, normalmente una persona va in un punto vendita, compra un prodotto, la consegna viene effettuata dopo qualche giorno e con la consegna normalmente viene ritirato il vecchio prodotto. Ora, ci sono due problemi. Prima di tutto la non contemporaneità delle due azioni e quindi il fatto poi di riconciliare, se così si può dire, la documentazione, che spesso è un problema. Perché immaginiamo anche i grandi punti vendita che fanno decine e decine di consegne tutti i giorni, dover riconciliare magari dopo una settimana i documenti della settimana prima è un lavoro veramente a volte anche difficile. E poi l'altra questione è che tutta questa questione del ritiro degli elettrodomestici si è andata a sovrapporre all'inserimento della normativa RAE, con tutte le problematiche che ne vengono dietro, quindi la raccolta dei rifiuti ingombranti, esattamente, dei rifiuti, cosiddetti rifiuti tossici, oltretutto in zone che spesso non hanno neanche le piazzole di ritiro. Quindi insomma, veramente per i rivenditori, per gli elettrodomestici, venditori di elettrodomestici, è veramente molto complesso. C'è da dire che questa... No, la interrompo solo perché dobbiamo adesso andare in pausa. Dottor Bernasconi, poi torneremo su questi aspetti che sono tutti molto importanti. Legiferando in tempi di crisi, è chiaro che si legifera in condizioni di emergenza o comunque di fretta, e tanti aspetti pratici poi nelle modalità applicative delle misure prese, lo abbiamo imparato per i mutui e per tante altre cose. Insomma, è tutto molto più complicato poi all'atto pratico, però di fatto questi incentivi ci sono. Quello che è stato problematico, adesso stiamo cercando di capirlo in modo tale anche di informare i consumatori che si recano nei punti vendita, quindi magari sanno in questa maniera che cosa vanno incontro. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Ci fermiamo per pochissimo. Salva Danaio, come ha fatto la settimana scorsa con Plus 24, ha ripreso anche la bella abitudine del lunedì di rubacchiare un tema del Sole 24 ore e proporlo agli ascoltatori. E allora questa mattina abbiamo scelto di riepilogare tutti i bonus ancora in campo per poter rinnovare la vostra casa, per fare degli acquisti che sono in qualche maniera incentivati e agevolati dal punto di vista fiscale, ma non solo, dal governo. Per i bonus c'è ancora posto, titola un pezzo della nostra Francesca Milano questa mattina. Sconti possibili per cucine, elettrodomestici e rimorchi, ma risorse esaurite per la moto, utilizzato circa il 58, facciamo 60 secondo dati aggiornati magari a questa mattina, dei fondi messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico. E allora, quali incentivi sono ancora possibile richiedere, quali sono esauriti? Questa mattina stiamo facendo un punto della situazione con, l'ho già citata, Francesca Milano, Pierluigi Bernasconi, vicepresidente dell'AIRES, l'Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati, e abbiamo finalmente, perché l'ho già salutata prima, Luca De Stefani, esperto in materia fiscale per il Sole 24 Ore, ma adesso avevamo previsto appunto di chiamarlo. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Sono arrivati tantissimi messaggi, adesso vi accontentiamo tutti perché sono domande telegrafiche, quindi possono essere esaudite anche con risposte telegrafiche. Però vorrei sentire Massimo, che è un nostro amico che ci segue. Questa mattina che cosa ha fatto? Prima ha letto il Sole 24 Ore, il pezzo di Francesca, e poi ha scritto anche a noi, perché lui dice: insomma, io a giugno mi sono fatto un giro per negozi tra molti rivenditori di Roma, ma ho ricevuto le seguenti risposte. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Che cosa allora, è successo? Io quando ho saputo dell'uscita degli incentivi ho pensato di sostituire i miei elettrodomestici da incasso della cucina, ancora funzionanti, però per recuperare un po' di efficienza energetica. Allora ho cominciato a girare per dei preventivi, ho girato due o tre di queste grosse catene di elettrodomestici, sono andato anche da un rivenditore specializzato in elettrodomestici da incasso, che vende solo quello, e sono andato anche da un paio di immobilieri che vendono tra le altre cose anche elettrodomestici da incasso. Ogni volta che chiedevo un preventivo chiedevo anche se c'era disponibilità del preventivo e se il rivenditore aderiva all'iniziativa del Ministero, perché non tutti aderivano, bisognava fare una richiesta. Va bene, tutti quanti aderivano normalmente, tutti quanti mi dicevano che giustamente solo al momento dell'acquisto sarebbe stato possibile capire se l'incentivo veniva erogato, perché veniva fatta una richiesta online e solo in quel momento avveniva la risposta. Già questo era un punto discutibile, sì. Adesso, perché magari uno non sa quando acquista se ha diritto o no all'incentivo. Comunque alla fine, diciamo intorno a metà giugno, ho deciso di fare il mio acquisto e sono andato dal rivenditore che mi costava di meno, che era quello specializzato in elettrodomestici da incasso. Sono andato lì, prima dell'acquisto gli ho detto: senta, io però vorrei acquistare solamente se c'è disponibilità dell'incentivo, sì. Perché normalmente i miei elettrodomestici ancora funzionavano, non avevo necessità. E loro mi hanno detto: guardi, mi dispiace, ma circa 10 giorni fa abbiamo ricevuto i primi, la conferma al Ministero dell'esaurimento dei fondi, e quindi non ci sono più fondi disponibili per l'incentivo. E a quel punto io ho rinunciato. Allora Massimo, noi questa mattina, se ha sentito la prima parte della trasmissione, una telefonata Francesca l'ha fatta al Ministero dello Sviluppo Economico, a noi non risulta, quindi o lei ha imbroccato, insomma, una persona un po' svogliata che non voleva avviare tutta la pratica perché... lo abbiamo riconosciuto anche prima, un po' complicata. C'è un iter un po' complicato, quindi magari al rivenditore spesso forse non conviene far beneficiare al cliente dell'incentivo, conviene magari fare un piccolo sconto direttamente, cosa che spesso propongono i rivenditori. Sì, come è successo anche per le due ruote, lo esattamente, abbiamo raccontato, poi ognuno fa quello che vuole, naturalmente. Esattamente, in ogni caso i fondi ci sono, quindi diciamo che se uno forse insiste, comunque dati alla mano, si può richiedere legittimamente l'incentivo. Quindi Massimo, forse, ma lei mi scusi, siccome io dalla mail che avevo letto avevo capito che più persone, più rivenditori le avevano dato la medesima risposta, cioè no, che i fondi... No, loro mi dicevano che non sapevano se c'era la conferma, però sapevano che c'erano molte richieste e quindi il rischio che finivano presto c'era. Quindi guardi, già mi avevano messo in allarme. Infatti io le dico che comunque fa ancora in tempo a fare la richiesta, Massimo, anzi secondo me c'è ancora... Sì, c'è ampio spazio per gli elettrodomestici perché infatti. È stato utilizzato soltanto il 49% dei fondi. Il tema è, dottor Bernasconi, torno da lei, che comunque bisogna avviare l'iter di acquisto e poi solamente a scontrino, credo, stampato, no? Si sa se l'incentivo è ancora disponibile o meno, però sì, i margini... più o meno. Guardi, però io potrei dare un tentativo di interpretazione dei fatti occorsi alla signor Massimo. Sì, perché dalla tipologia di commerciante che lui ha... identificato, quindi uno specialista di elettrodomestici da incasso, spesso queste, diciamo, organizzazioni sono in realtà delle organizzazioni che grossisti che hanno saltuariamente effettuano delle vendite al pubblico direttamente, naturalmente immagino avendo i corrispettivi tutto quello che serve, però di base le organizzazioni che si occupano esclusivamente di grandi elettrodomestici da incasso sono dei grossisti, quindi è possibile che non avessero né particolare attenzione rispetto appunto alle normative che invece sono molto più seguite dal cosiddetto canale consumer e magari non erano neanche iscritte al registro delle imprese che potevano partecipare. Comunque insomma un caso limite che ci ha dato modo questa mattina di ribadire che gli incentivi ci sono ancora, ce ne sono anche un bel po', per cui adesso non è detto che tutti coloro che volessero fare questo acquisto devono farlo nel giro di una settimana, c'è ancora un po' di tempo, però insomma gli incentivi ci sono e quindi ecco bisogna solamente essere decisi nell'acquisto perché la procedura telematica richiede di fare appunto l'acquisto e poi lì all'atto del pagamento il rivenditore è in grado attraverso questo collegamento telematico di capire se l'incentivo c'è ancora e quindi farne appunto direttamente richiesta. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Ci sono due ascoltatori che ci chiedono chiarimenti sul tema dell'acquisto dell'abitazione, dell'incentivo per l'abitazione ad alta efficienza energetica. Prima di aprire questa parentesi ancora un po' però sul tema che abbiamo affrontato fino ad ora, Francesca, Amedeo chiede, attenzione, non siete stati molto precisi perché non avete nominato gli incentivi per i motori marini. Assolutamente. Qual è la situazione? Gli incentivi per la nautica sono ancora disponibili, quindi chi vuole comprare un motore fuoribordo, insomma, può ancora farlo usufruendo dello sconto previsto dal decreto incentivi, assolutamente sì. Angelo da Vicenza invece chiede, sono previsti o possibili incentivi in caso di acquisto senza rottamazione prima acquisto? Posso comprare un forno elettrico nuovo e non rottamare il vecchio? Purtroppo no. Bisogna trovare un amico che presti un forno da rottamare. Rottamare, insomma, qualcuno, un forno va rottamato. Dottor Bernasconi, Delfo ci chiede se si può rottamare il forno microonde e avere i contributi. Mi pare di no. No, credo che non sia. No. Neanche no. Noi. Senta, un'altra cosa invece che riguarda i vostri associati. Michele da Treviso ci scrive: io ho acquistato un piano cottura, il venditore mi ha fatto pagare 5 euro di spese per il recupero dell'incentivo, è corretto? Non è previsto, ma non è neanche esplicitamente vietato. Io credo che un buon rivenditore non debba farla questa richiesta e un cliente dovrebbe rifiutarsi di pagarlo. Si è fatto un po' remunerare la pratica, insomma. Credo di sì. La rottura di scatole del farla, perché abbiamo capito che comunque avete ragione anche voi, che non è che sia poi così semplice, però insomma teoricamente non è previsto. Sono in disaccordo sulla richiesta del mio collega rivenditore. La ringrazio per la correttezza. Andiamo all'incentivo per l'abitazione ad alta efficienza energetica. Luca De Stefani, eccoci qua, siamo ritornati ancora insieme. Allora, prima di andare un po' alle domande degli ascoltatori, ci ricorda qual è l'agevolazione e di quanto è il contributo per queste case ad altissima efficienza? Sì, allora, per quanto riguarda l'acquisto di un immobile di nuova costruzione di classe energetica B, abbiamo un contributo, un incentivo che viene erogato direttamente all'acquirente di 83 euro per metro quadro, mentre questo incentivo aumenta a 116 euro se la classe energetica è di classe A, quindi devono essere degli eco immobili e comunque di nuova costruzione. Certo, vedo che la classe energetica dell'immobile deve essere certificata da un soggetto accreditato. Parlando di immobili di nuova costruzione, questa certificazione ce la fornisce già il costruttore De Stefani, oppure dobbiamo impegnarci noi nel farci elaborare da qualcuno, da questo soggetto accreditato, questa certificazione per ottenere il contributo? No, direttamente il venditore dell'immobile, chi ha costruito l'immobile, deve darci questa certificazione energetica che va fatta da un tecnico abilitato. Benissimo. Allora, anche in questo caso, anche per le ecocase, dottor De Stefani, il contributo va al venditore e quindi praticamente per quello che riguarda l'acquirente dell'abitazione ottiene un'immediata riduzione del prezzo di vendita, come funziona per gli elettrodomestici, per le cucine componibili? Ecco, no, a differenza degli altri incentivi, il contributo, l'incentivo, che può essere al massimo di 5.000 euro o di 7.000 euro, dipende dalla classe energetica, va direttamente all'acquirente. Quindi il bonifico, il pagamento viene fatto al venditore per l'importo pieno comprensivo di IVA e degli eventuali altri oneri e successivamente, dopo un'apposita richiesta da fare alle Poste, l'acquirente riceverà un bonifico bancario da parte delle Poste. Ecco, italiane. Proprio su questo le faccio ascoltare allora la domanda di Dario da Asti. Dario. Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Io ho acquistato un immobile in classe A e ho richiesto gli incentivi, poi mi sono interessato, hanno accettato la domanda, certo. Ho mandato tutti i documenti, eccetera. Il mio problema è questo: quando mi pagano? Un bel problema, Dario. Lo vorrebbero sapere anche i rivenditori di cucine componibili e di forni elettrici. Dario, la ringrazio. Dottor De Stefani, è possibile capire in che tempi avviene il riaccredito di questi importi? Sono gli stessi di quelli detti prima per quanto riguarda... Esatto, sono fondi bloccati per tutti temporaneamente. Assolutamente, si tratta di 300 milioni messi appunto a disposizione dal decreto che verranno sbloccati, pare, a metà settembre. Però insomma io non credo che sarà una questione di anni, se non sarà una questione di pochi mesi. Sì, assolutamente, Dario. Speriamo. Dario, comunque sono soldi che devono essere rimessi in circolazione, l'obiettivo del governo era questo quando ha stanziato questo pacchetto, pertanto a tutto credo anche l'interesse a riconoscervi questi contributi se ne avete fatto regolare richiesta, è proprio perché si tratta di denaro da rimettere in circolazione. Ecco qua, allora faccio fare anche sempre su un immobile ad alta efficienza energetica la domanda a Giovanni dalla provincia di Monza e Brianza e poi magari andiamo ai suggerimenti per chi è in viaggio e rispondiamo dopo. Intanto Giovanni, vorremmo sentire il suo quesito. Sì, buongiorno. Niente, io volevo chiedere questa cosa qua. Io ho acquistato una casa ancora in costruzione, me la dovrebbero consegnare fra circa un mese e mezzo, sì. In classe B. Io ho chiesto, saputo gli incentivi, al mio costruttore se era possibile accedergli. Il mio costruttore mi ha detto di no perché ancora loro non hanno la certificazione effettiva della classe B. Ma io mi chiedo a questo punto, il costruttore doveva aver già consegnato, prima di iniziare il cantiere, la tipologia di casa che andava a costruire oppure è una farsa questo che mi ha detto? Ah, Giovanni, mamma mia, questa è un'ulteriore sofisticazione del tema che stiamo affrontando questa mattina. Spero che il tempo dei consigli per chi è in traffico sia per chi è in viaggio sia sufficiente a Luca De Stefani per elaborare una trasmissione oggi sono proprio ubriaca, per elaborare una risposta su questo punto. Un minutino di pazienza così magari mi riprendo anch'io. Luca De Stefani, allora con il caso di Giovanni dalla provincia di Monza e Brianza. Sì, in questo caso infatti che abbiamo un contratto preliminare di vendita di un immobile non ancora pronto e quindi che sta per essere terminato. In questo caso nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico vi è una risposta ad un caso simile dove viene chiarito che il certificato energetico deve essere prodotto comunque alla fine dell'attività di costruzione dell'immobile. Quindi l'incentivo sicuramente si ha, anche se il preliminare è già stato stipulato. L'importante è che il preliminare sia stato stipulato dopo il 6 aprile del 2010 e che comunque l'attestato di certificazione energetica venga allegata all'atto definitivo di compravendita. E insomma, quindi Giovanni deve credo ancora pazientare un mesetto. Credo che anche in questo caso Francesca, se avesse la titolarità per farlo, non perderà gli incentivi, perché vedo che ne sono stati stanziati solo il 26% dell'ammontare disponibile. Utilizzati solo il 26%, esatto, e stanziati 60 milioni, quindi insomma c'è ancora tempo sicuramente per chi vuole comprare un immobile ad alta efficienza energetica. E quindi insomma di avere tutta la documentazione per essere a posto. Volevo fare a De Stefani, perché il nostro uomo di riferimento sempre su questi argomenti, lo abbiamo interpellato tante volte per la partita dei frigoriferi e delle lavatrici, c'è un ascoltatore, De Stefani, adesso non è sulla Ecocasa, ma so che questo lei lo saprà senz'altro, che ci scrive, Davide da Bologna: ho comprato un frigorifero a più, nessuno sconto istantaneo, non è previsto per questo pacchetto di cui stiamo parlando questa mattina, solo detrazione del 20% sui redditi, questo è l'incentivo riconosciuto per questo tipo di elettrodomestico, ma se non devo fare il 7,30 qua è il solito problema, purtroppo perde questo incentivo, vero? Purtroppo è una detrazione d'imposta, se ha un unico datore di lavoro comunque può fare i 7,30 per sua spontanea volontà e va a recuperare comunque questo 20%, quindi non deve fare i 7,30, cioè se non è obbligato, chi è obbligato a fare i 7,30? Chi ha più datore di lavoro, ad esempio, se però ha solamente un datore di lavoro può comunque per scelta fare il modello 7,30 il prossimo anno e recuperare dalle imposte che il datore di lavoro ha già pagato durante l'anno, recuperare questo 20% di detrazione fiscale. Benissimo. Allora, chi sentiamo adesso? Matteo da Livorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, salve. Buongiorno, ci dica. Allora, ho acquistato un frigorifero classe A+, tre giorni fa, da €1, ho avuto una indicazione della possibilità di risparmiare appunto circa €200 del valore del frigorifero, mi è stato detto che non ho mi è stata data la fattura e quindi il prossimo anno in dichiarazione, sì, io sono un libero professionista, potrò appunto avere la detrazione. Sì. Mi è legato al fatto che io però debba smaltire comunque il vecchio frigorifero e comunque attività che mi viene svolta dal negoziante presso cui ho comprato il frigorifero. Benissimo. Sì. Tutto a posto allora, Matteo? Ecco, confermo a voi se il plafon di euro che il ministero mette a disposizione ricado anch'io all'interno del suo plafond, oppure comunque io posso dire di essere certo. Sì, sì, Matteo, non c'entra niente con i plafond di cui stiamo parlando questa mattina. Allora torno da Pierluigi Bernasconi. Ribadiamo ancora una volta, i frigoriferi con il pacchetto degli incentivi di cui parliamo questa mattina non c'entrano niente, no. Hanno degli sgravi fiscali per conto loro già in campo da tanto tempo, da più sì, tempo. Sì, perché questi sono, se non sbaglio, addirittura nella finanziaria 2008 forse addirittura 2007, valevano anche l'anno scorso e quest'anno. Credo addirittura nella 2007 valevano per il 2008, 2009 e 2010. Non erano fondi che andavano ad esaurimento, sono, in sostanza. E non sono ad esaurimento, semplicemente c'è quell'iter che ha indicato l'ascoltatore, esatto. L'ascoltatore, sì, molto sì. Bene. Allora, da chi andiamo adesso? Tra l'altro, sempre a proposito della casa ad alta efficienza energetica, classe A o classe B, e quindi appunto i soldi restituiti dallo Stato sono di un ammontare diverso a seconda della tipologia di abitazione, un altro ascoltatore che si chiama pure Davide, torno da lei, Luca De Stefani, ci chiede: io mi sto costruendo la casa, non la compro da un'impresa, ho comprato i terreni e sto affidando l'appalto per i lavori, ho diritto al contributo? No, in questo caso no, perché no. La norma parla direttamente di acquisto da terzi di una nuova abitazione, quindi non per la costruzione. Benissimo. Per l'acquisto della prima, è sempre quindi una prima casa peraltro, giusto? Sì, deve essere una prima casa. Oltre al contributo statale ci sono anche le agevolazioni per esempio sull'IVA, sulle imposte di registro, ipocatastali? Sì, se ci sono i requisiti per avere l'agevolazione prima casa, sicuramente è possibile avere la riduzione dell'IVA dal 10 al 4% nel caso in cui vi sia appunto l'agevolazione prima casa, oppure la riduzione anche dell'imposta di registro che va dal 7 al 3% e l'ipotecare e le catastali possono essere del 2% o dell'1%, sono fisse in questo caso. Andiamo e ritorniamo alle cucine con Andrea da Forlì. Sì, buongiorno, mi sente? La sento benissimo, Andrea. Buongiorno a lei e a tutti i suoi collaboratori. Grazie. Io avevo bisogno di un'informazione perché mi sto attrezzando per acquistare online dei elettrodomestici da incasso. E mi è stato richiesto semplicemente di dichiarare in una causale degli incentivi, di partecipare agli incentivi 2010. Quindi non mi sono stati richiesti documenti di ritiro, rottamazione e quant'altro. Volevo sapere se è una cosa normale così per acquisti online o se c'è qualcosa di cui uno deve stare più attento. Benissimo, Andrea, la ringrazio. Allora, Bernasconi, vengo da lei. L'ascoltatore ha chiesto di fare un acquisto. L'importante è che l'ascoltatore si premuri che lo sconto gli venga effettuato. Poi saranno problemi dell'operatore online a recuperare i soldi. Mi pare che non abbia molte speranze se non richiede una certa documentazione, soprattutto quella dello smaltimento dei vecchi elettrodomestici. Però torno a ripetere, se il consumatore ha verificato il prezzo, diciamo, pubblicato online e verificato quello che gli viene praticato, se ottiene gli sconti, ben venga, si porti a casa i suoi elettrodomestici online. Però magari faccia una verifica ulteriore, Andrea, magari se vuole ci scriva e così anche noi andremo a curiosare e vuole fornire altro materiale a Francesca per tornare magari prossimamente su questo argomento esatto, per capire tutti gli aspetti non chiari e che ai consumatori vanno chiariti. Ritorniamo in un ambito che invece di tutti gli stanziamenti che abbiamo parlato questa mattina, abbiamo parlato molto rapidamente solo perché appunto le risorse disponibili sono state ampiamente utilizzate. Rodolfo da Taranto, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Ci dica. Sì, allora io siccome ho acceso la radio da poco e ho sentito che stavate parlando di incentivi. Sì. Allora io ho fatto un'attivazione per la DSL pochi mesi fa, esattamente 4 mesi fa. Poi mi è arrivata la prima bolletta, ho visto che il mio incentivo non è stato applicato, anche se comunque rispondevo a tutti i requisiti che mi avevano chiesto all'inizio quando ho fatto l'attivazione della linea. Niente, mi sono informato, mi hanno detto che la mia domanda era stata accettata, però purtroppo l'incentivo non ho avuto risposta alla compagnia presso cui ho fatto l'attivazione. Mm-mm. E volevo chiedervi dove mi posso informare meglio per vedere se la mia risposta, cioè se la mia domanda è stata accettata, se è passata, se lo posso avere o ancora. Che cosa si può essere ingarbugliato nel frattempo. Allora intanto sì, mi sono informato, mi sono informato tramite internet e vedere un attimino tutte le informazioni che c'erano ed erano stati stanziati 300 milioni di euro da parte dello Stato tramite un decreto ed erano stati stanziati ad aprile, quindi io ho fatto l'attivazione 35 giorni dopo, è possibile che non mi sia stato fatto. No, tra l'altro guardi Rodolfo, anche in questo caso adesso io non mi ricordo esattamente, anche siccome noi li avevamo affrontati veramente tutti, avevamo portato a Salvadanaio un paio di grandi operatori delle telecomunicazioni e ci avevano appunto spiegato l'iter che si doveva seguire per poterne beneficiare attraverso loro, qualora si fosse ovviamente cliente, per cui mi ricordo che sicuramente abbiamo fatto la puntata almeno 20 giorni dopo la partenza del provvedimento e chiaramente sì, sono stati rapidamente utilizzati ma non bruciati come le due ruote. Francesca, no, cosa può essere successo? Allora, non so cosa può essere successo, però so che c'è un numero verde da poter chiamare. Ah. Il numero verde delle poste, lo diamo subito, è 800 123 450, e oppure da rete mobile 199 123 450. Questi due numeri dovrebbero poter dare risposta a eventuali quesiti come questo o come insomma gli altri problemi possono essere risolti in questo modo. È il numero del call center delle Poste Italiane che si occupa proprio della gestione operativa, perché il Ministero ha delegato alle Poste la gestione dei contatti dei rivenditori ma anche dei rimborsi ai rivenditori, e quindi loro hanno tutte le pratiche dei singoli utenti che hanno usufruito degli sconti, quindi probabilmente hanno anche la pratica dell'ascoltatore che ci ha chiamato. Certo, può essere successo che ad esempio l'operatore in questione, che non sappiamo chi sia, abbia deciso di riconoscere, perché non mi ricordo se c'era qualcosa del genere anche adesso dovrei andare a riverificare, magari ci ritorniamo, la richiamiamo Rodolfo privatamente, se anche loro riconoscevano lo sconto da applicare al consumatore solamente dopo aver ricevuto da parte dello Stato è il molto contributo. Probabile, è molto probabile, perché in realtà questi fondi che il Ministero deve sbloccare sono i fondi relativi a tutti gli incentivi, quindi anche a quelli della banda larga, e probabilmente aspettano di riconoscere lo sconto al cliente quando a loro volta avranno il rimborso da parte dello Stato. Quindi potrebbe essere così, magari nella bolletta di ottobre, novembre, insomma nei prossimi mesi potrebbe arrivare il 50 euro di sconto. Infatti, però insomma, Rodolfo, il tema è questo, riguarda un po' tutti, sono bloccati per tutti, forse banalmente ancora non li ha riavuti indietro, proprio perché settembre potrebbe essere il mese cruciale appunto per risolvere tutte le pratiche. Allora, un minuto di tempo, chiedo a Dino da Milano di essere telegrafico, Dino, e la ringrazio. Sì. Buongiorno. Volevo sapere una cosa, io ho fatto il preliminare per l'acquisto di un appartamento, prima casa, a settembre del 2009, sì. Però il rogito l'ho fatto il 19 luglio di quest'anno. Sì. È possibile avere l'incentivo in questo caso? Bisogna vedere anche quando e come fare le domande. Dino, la ringrazio. Luca De Stefani. No, non è possibile, in quanto il preliminare deve essere stipulato dopo il 6 aprile del 2010. Quindi non è possibile. Per tutti coloro che hanno fatto il preliminare l'anno scorso, ma rogitato quest'anno, niente contributo se si è acquistato appunto un immobile ad alta efficienza energetica. Allora, noi probabilmente stamattina abbiamo fatto un calderone di tanti argomenti, però speriamo di aver quantomeno sollecitato l'attenzione sui bonus che non ci sono più e su quelli che invece sono ancora validi, ancora possibili da richiedere. Le procedure sono complicate, però tante persone non ci si sono scoraggiate. Sì, ci si può provare. E quindi è importante ricordare che questi soldi vanno utilizzati entro il 31 dicembre, quindi gli acquisti vanno fatti entro fine anno. Se dovessero rimanere risorse inutilizzate, ci sarà una procedura per insomma destinare ad altri incentivi o insomma ad altri obiettivi questi fondi rimanenti. Io direi però di risentirci sicuramente prima della fine di settembre. Quando hai notizia dello sblocco del denaro, Francesca, chiamaci subito. Torniamo. Che organizziamo seduta stante una puntata. Grazie. Grazie anche a Pierluigi Bernasconi e Luca De Stefani per essere stati con noi, Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Fabio Cantadori, guarda che bello spelling che faccio, per l'assistenza tecnica. Salva Danaio torna domani. Buona giornata.